eri tu quando ti chiamavo fratello e mi aspettavo un sorriso, solo quello. Dove eri tu quando le bombe dal cielo distruggevano ogni campo di grano? Eppure bastava una tua sola parola per mettere fine a questa macabra storia. La tua politica uccide ogni memoria. La tua assenza ci è costata molto cara. L'uomo che non incarna il suo sogno è un uomo in balia del vento. È come una foglia in autunno, cade e muore sola l'inverno. L'uomo che non incarna il suo sogno è un uomo in balia del vento. È come una foglia in autunno, cade e muore sola e va incontro all'inverno. A forza di chiudere gli occhi, di collezionare rami secchi, il tuo silenzio fa il gioco degli stolti e su di te piovono topi morti. La tua bocca un vuoto di vuoto, il tuo respiro un vicolo cieco, il tuo destino acqua sul fuoco e ti lasci morire poco a poco. La tua strada non avrà mai fine, nell'inizio sempre nel bitume. La terra che accoglie i tuoi passi chiede ogni giorno che la si rispetti. È inutile che ti otturi le orecchie, prima o poi ritroverai le tue pecche. La tua voglia di non volare ti spezzerà le ali del cuore. L'uomo che non incarna il suo sogno è un uomo in balia del vento. È come una foglia in autunno, cade e muore sola all'inverno. L'uomo che non incarna il suo sogno è un uomo in balia del vento. È come una foglia in autunno, cade e muore sola e va incontro all'inverno.